pace, però anche complimenti, se qualcuno mi ha guardato a fare complimenti, ma che sia intelligente è veramente dire un'eresia, perché intelligente non è. Mi è sembrato che sotto ci fosse qualcuno che chiamava. Ma che popolazione c'è? Non ti dico, mi sembra abbastanza pulito il canale. Sì, è sporadica la propagazione, a momenti. Infatti, a momenti c'è propagazione, a momenti no. Capo, io ho la finestra aperta, poi la sera esce questo freddo micidiale, che strano, diventa caldo dentro e freddo fuori, viceversa. Sì, oggi con la temperatura che c'è fuori oggi, c'è uno sbalzo di temperatura molto molto significativa. C'era qualcuno che ci stava chiamando di propagazione, ma lasciamo il freddo. Sì, infatti. Sì. Comunque adesso mi senti bene Giulio, vero? Non è barattolata come prima. No, mi sento bene. Sì, anch'io. Tu adesso che hai toccato quello lì, sei 9:35 addirittura. Quasi sognare Claudio quando era su. La radio ovviamente adesso va bene, rispetto a quando è iniziato che era bassa bassa, quindi è aumentato di parecchio dopo che si è fatto quella regolazione, cioè un segnalone veramente inattaccabile. Marco lo stesso, siamo di fronte, quindi. Sono con 10 watt miseri, modulati forse 12-13, presumo, dai. Sì, più o meno sì. Io sono almeno potente come senti, sono un watt e mezzo, ma considerando che ho tutto tipo, ce n'è avanti. Poi hai visto, mi senti anche col coso, con la tendina frusta, Marco, quindi meglio di così. Sì, beh certo, su questi canali, su quel canale va bene, non c'è problema. E niente, poi Giulio ricordati che dobbiamo fare anche quelle altre prove che avevamo detto, dato che adesso sei operativo, facciamo quelle prove là appena ci abbiamo un attimino di tregua, ecco. Sì, non c'è problema, li facciamo al momento culturale, le facciamo. Sì, ok. E niente. Marco, ma hai finito di mangiare? No. No, se così va anche bene. No, nessuno oggi. Ok, perfetto. 19:05 per chi fosse interessato all'orario. Anzi, esattamente 06 ora. Lui non ci arriverà mai in questo sistema qua. Non è possibile che possa arrivarci, perché non è abbastanza intelligente. Sì, Giulio, su quello non c'è dubbio. Comunque diciamoci la verità, almeno ci fa anche ridere, ci fa ridere se non altro, perché è ridicolo. Ogni tanto me ne dici una giro via. Micidiale, vabbè. Ma poi ci pensi che a fine serata questo c'è il dito cancarato e non ha combinato niente. Non ha ancora capito che non c'è speranza. Cazzo, c'è un segnalone qua, altro che non c'è speranza. Perché è vicino a te, Claudio. Però lui non lo sa dove sono io, ma io so dove è lui, quindi siamo sempre lì, il discorso non cambia. Ma segnalone però. È il Galaxy in mezzo al trecco, Ma come ho detto prima, lasciamolo fare, Claudio, lasciamolo fare. Che ci stiamo divertendo un bel oggi, stasera. Ah, benivella, buttati là. Luca Benivella. Vabbè, qui arriva forte, qui vi crepa tutti. Anche a Marco passa, figuratevi voi. Tutti, non se ne salva uno, vi ammazza tutti, proprio via niente, non vi sento neanche, è un segnalone è un'antenna bassa, però se a me mi arriva così forte è chiaro che siamo vicini, non lo so, non metto lingua, non mi interessa, va bene, l'importante è che lui non sappia dove sono io poi. Ciao Benifè. E mai casare, l'antenna è sollevata, sarebbe bene. Antenna sollevata, no, col Galaxy sto andando alla massima potenza, cos'è antenna sollevata, e alzati l'antenna, va giù. Cazzo, sono tre, sì, è matto di Nivaria, poi se la sollevi allora, lo smette a fare di cigini, ma ora c'è la portante. Ehi, come al solito, e lui, ti ho detto che non sono basso io, come zona, sono molto più alto come il livello del mare, della zona dove ero prima, però purtroppo sono in mezzo a una vallata, riesco a fare qualcosa, però non tanto, ma l'importante è che mi ascoltate, non c'è problema. Claudio? Oh, ciao Gianfranco, ripeto. Sì, è entrato anche Marco, che chiamava Claudio, avanti. Hey, ciao Claudio, allora il segnale tuo è passato da 9 più 5 che era ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, a 9 più 25, quindi di lusso. Bene, bene, sono contento, no, l'antenna è sempre dov'è, devo aggiungere due pali da 2 metri, quindi altri 4 metri posso levare, perché ce n'è solo uno da 2 metri, però col tempo ragazzi, non ho voglia e poi mi devo appendere, non mangio più gas, appena c'ho tempo lo faccio, sono qua comunque, riprendi Marco e fai girare per Giulio. Ehi, conta che è lo smitter a LED questo, eh. Questo è lo smitter dal 7900 che segna sempre un po' di più, o meglio segna più correttamente, dai, col 3900 sarà diverso. Riprendi Giulio? Ok. Ok, no, ma intanto stavo parlando telefonamente, senza nessun problema. Non ci poteva dare fastidio nella maniera più assoluta, perché abbiamo noi un sistema tutto particolare, per cui no, non c'è problema qua. La portante, martellante, ta ta ta. Claudio, non ho capito se tu lo passi, lo sai? Comunque qua entra la portante, arriva sullo zero. Ciao Luca Riei. Ciao Marco, arriva sullo zero. Poi se arriva anche senza antenna, da giù di tutto. È triste però, è triste veramente, cioè io è quasi un mese che mi sono spostato di postazione e vedere ancora queste cose mi rattrista veramente, mi dà proprio la voglia di non sollevare l'antenna, ma di toglierla del tutto, e credetemi, perché insomma non va bene così. Se una qualcosa basta affrontarla la persona, si c***e, non lo so, ma così cazzo non va bene, perché disturba tutto il QSO. Non ci crede voi, non ci crede. Capa, buonasera a tutti. Ciao Anto, buonasera. Vabbè, furbo non furbo, comunque io ripeto, ribadisco che non sono cose da fare. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua, per carità. Ma a me così non mi piace. Dai, vi saluto, rimango in quell'X, quelle poche 10 minuti che voglio rimanere, a me così non mi va. Vi passa, quando parla Giulio avete la portante, non sento niente, a me non mi piace parlare così, dai. Ciao a tutti, buon divertimento, ciao ciao. Ciao Cla, ce la risentiamo. Io sono alla massima potenza, come ti arrivo in quelle zone? Guarda, ti dico solo che arrivi bene, ma la portante passa anche a te, quindi ve l'ho già detto, è un segnalone allucinante. Io sto andando col Galaxy ed è sul più del Galaxy. Immaginatevi voi dov'è o dove non è, io non lo so, ma comunque sicuramente non è lontano da me, perché segnali così è impossibile arrivare qua in questa vallata. Ok, dai, ciao a tutti. Ma scusa, che pure attaccato, comprisco. Attaccato, sono cose che non vanno bene sentire, dai. Io vi saluto, non mi piace parlare così. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Conta. Ciao a tutti. Vi ascolto. Ciao Antu, ben entrato. Ciao, ma oggi mi potete un thank you invece di voi, ma con vero mi cocca. Che è nativino. Kappa. Guarda che mi giro veramente le balle, che sono a casa tua, ando. Cioè, ma per cosa fai Gucci? Che mi sono un uomo umano, ma con candela. Però predica bene e razzola male, capito? Comunque è quello per due giorni, a vedere che cosa mi ha detto l'altro giorno. Era lui. Kappa, comunque a voi non vi fa niente. Passa un po' pochettino a Giulio, passa, passa, agli altri non li faccio in un tavolo, avevo manco un bello ricocca nelle mie parti. E avanti che chiama, io già ti ho sentito. Miserabile, cazzo. Quanta divisione la Spagna. Adesso dice cosa anche lo spagnolo. Giulio, riprendi. Riprendo io, vai. Così mi senti, Giampo. Ok, volevo dire che da me tu passi. Appunto, perché si può dire anche il stesso culo, perché tu non ce l'hai mai fatto. Ho fatto un culo d'acqua. Ciao Antonio, comunque buonasera. Come vedi oggi ci stiamo divertendo, c'è questo qua che fa la parte dello scemo, che è da stamane, però cioè da stamane, da stasera, da presto, ha pentato, però noi questo ce lo siamo fatti tranquillamente, alla faccia sua, e lui sempre ta ta ta ta ta ta ta ta. Oi, beata lui che c'ha tutto quel tempo. Ma è che cattivo, non sai conto che si lascia fare proprio qua? No, che fai in giro, non se ne rende conto. E poi c'è un ciclo. Infatti. Anto, io lo passo a questo imbecillotto, sì. Ma Antonio mi fa molto silenzio, già muriandoli. Marco, da te? Sì, assolutamente. A questo Smith a 6,9 più 40. Infatti. Quindi non c'è problema. È ancora un'altra conferma di dove si trova. Cioè, ne abbiamo talmente tante. Insomma, questo qua si sta mettendo un coltello nelle parti basse. E beh Giulio, com'è andato il collaudo di quell'apparecchio? Ma io posso commentare? Adesso come lo segnale adesso? Guarda, da me tu a prescindere lo passi, quindi tra noi due, nonostante tu sei la stazione più coperta rispetto a Claudio, rispetto ad Antonio, rispetto a Marco, però io riesco, anzi guarda, adesso mi è caduto pure l'occhio sul filtro, io volendo lo potrei anche discriminare a lui, perché metto il filtro sempre più stretto e quindi le diminuisco la sua ampiezza di ticchettio, diciamo così. Bianco un attimo che ci sentiamo tra un po', ok? Che c'ho un attimo al telefono. Ok, Anto. Giulio, avevo chiesto se era passato il collaudo, fammi un bel passaggio col capo, vediamo com'è. Avanti Marco, dimmi così com'è, vai. Sì, forse lo stai tirando un po' per cercare di passare, via. Sì, se parli magari più forte potrebbe anche distorcere, ma è una situazione d'emergenza, diciamo. No, ma sto usando poco, 10 watt e basta. Marco, invece dimmi una cosa, così lo passo sempre, sono proprio ai minimi termini. Sì, circa 9 più 20, tipo 9 più 15 a questo Smith, ma la portante adesso non c'è. E resta da fare al puntaio, poveraccio, con tutte le benedizioni che si ha ricevuto. Oi. Ora. Giulio, mi senti? Dimmi, tocca. Sì, come mi senti con questo? Ti sento bene. Ok, anch'io benissimo. Non è rotta tanto che non la accendevo, quindi volevo vedere un po' se andava. Sì, che va. Ok, va. Giulio, prova, mi senti? Attento, Gianfranco, 1, 2, 3, prova. Sì, viceversa, parla sull'altra. Prova, prova. E me sì, se già le prova, vedi. E lui già sarì su voi, e me già sarì. E prova? Sì, a buono era, dai, buono. I PMR sono. Lì no, lì non andate. Attento, Gianfranco. parlando adesso in PMR. Ok, a posto, sì, tarato. Ok, perfetto. Bene, anche questa è fatta, dai. Ok, comunque funziona sempre, richiesta ma funziona. Che è più forte, questo o l'altro? L'altro. Ok, sì, sì, va bene, sì. È più forte quest'altro. Di radio o di segnale? Il secondo, quello che è poc'anzi, il secondo. Ah, sì, beh, quello là ha meno regolazioni, quindi è un po' più fisso come coso, dico, come sistema. Ok. Sì, sì. Sì, infatti si sente un po' di QRM sotto qua. Adesso com'è? Adesso senti un po' di QRM. E forse adesso va bene così, la radio a quel volume va bene, perché sono col microfono, quello che uso col portatile, l'altro che invece è un po' più, no, a meno che non abbia abbassato io, non dico come sono, aspetta che controllo, mi stai facendo il dubbio. Ok, no, va prova. Ecco, sì, in effetti era basso, adesso va meglio? Sì, adesso va bene la radio, così va bene. Ok, no, perché siccome ieri avevo abbassato perché c'era l'altro microfono, e poi l'ho lasciato com'era, come al subito. Comunque, va bene così. Già che ci sei, proviamolo in banda laterale quell'apparecchio, a vedere come si comporta, se ha fatto un buon lavoro. Va bene, facciamo così, aspetta che cambio, che adesso sono canalizzato e dunque per andare in banda laterale devo uscire dal canalizzato e andare in continua. Sì, magari ci spostiamo Giulio sul 14, dai, 125, così se c'è qualcuno qua che deve entrare facciamo pure il canale libero. Va bene. Attento 10, c'è qualcuno? Chiamate, attento, c'è qualcuno su 10? Ora attenzione 10, c'è qualcuno? No. Chiamate. Uè, ciao Robert, buonasera. Chi sei? Antonio sono. Chi vuoi che sia? Ah, scusa, sto sentendo una diversa la voce, stavo usando un altro baracchino. Eia! Aspetta che attacco il capo, dai! Sta andando bene. Oh, già sta uscendo bene, benissimo. Eia, allora, aspetta che attacco il capo, che è meglio. Sto qua, lo uso così. Ehi, Robè! Eia! Eccomi qua. Una gaccia che ho fatto oggi, oggi mi giocando per tornare a mare. Lo so, non sono uscito stamattina, sono uscito stasera, perché stamattina ho fatto cosa. Dammi un controllo di segnale per curiosità, che ho fatto dei passaggi diversi qua, di fili, di cavi, eccetera. Ho 40 a radio 5. Tutto uguale, non è cambiato niente dal solito mio segnale. Poco e niente. No, vabbè, non solo quello volevo dire. L'altro giorno non mi sono accorto, stavo uscendo più basso, me l'ha fatto notare cosa, insomma avevo fatto delle modifiche di passaggi, di fili, accoppiatori, eccetera, commutatori di antenna, eccetera, e non so se ieri o avanti ieri, ma l'ha fatto notare cosa che era un po' più basso. Comunque tutto a posto, mi confermi? Io non credo, via. Via. Ok, c'è la propagazione, poco fa ho parlato un po' con la Spagna, Alicante, non so che cacchio era, questo Carmelo, poi ce n'erano altri, su 14, ma erano uno sopra l'altro, arrivava a 9 più 10, però c'è un po' di confusione, ho lasciato perdere, no? Non mi piace quando c'è la propagazione così, più bella quando è più stretta, che c'è poca gente. Non so, già, sono buttando l'ora, ho detto, sto buttando. Ma quando? Adesso? Stasera? Ma sta con un amico. Ma da mai non sei andato al mare stamattina? Al bar? Oh, c'è un po' di gente al mare, mi ha detto mia figlia, loro sono andati. andati, ecco, il fidanzato ci ha fatto Bururubagno, quindi. Sì, che siamo andati, sono andato al Maggio Rugredo, te l'ho detto. Ma dico, bagno non te l'hai fatto? No, appena. L'hai fatto? Sì. Ma dice che non era pulita l'acqua, vero? Come ha fatto la mareggiata? No, anzi. La mareggiata che ha fatto qua era anche troppo pulita. Ma dove vedi tu, a Platamona? Io. No, allora non ti ho mai santo. Ieri era bello comunque il mare, mi ha detto, mi ha mandato le foto, era bellissimo. Oggi dice c'era un po' di cosa, di ondina, ma niente di importante. Anche a Platamona. Però l'acqua alla fine non è male. Ci sono dei giorni che è una cosa che non si crede. No, la settimana scorsa sono andato a Platamona per vedere una macchina, o due settimane fa, c'era il mare, era uno splendore, dove c'è il presidio militare, lo sai dove è tu? Sì. Dove ci sono i casotti che lì siamo sempre lì noi, le gabbine, le cosiddette gabbine, di lì c'era il mare, l'altro due settimane fa, di domenica era uno spettacolo, limpida. Sì, non c'è niente che invidiare, purtroppo molte volte a fare la mareggiata e farle mettere le alghe, è un casino, dopo tutti questi cambiamenti di tempo. E quello è il problema. Lo so. Ma Platamona, se non vai verso Sorso, che di lì ci sono gli scarichi dei villaggi, l'acqua non è pulitissima, ma qua nel pezzettino noto c'è la rotonda un po' più avanti, al secondo pettine è buona. Dopo di lì devi stare attento, poi se vai al Moria Mare, è finito, lì ogni tanto chiudono perché c'è inquinamento. Non va bene però così. Lo so, purtroppo. Se non controllano bene, troppa gente scarica. Ma io a Platamona andiamo perché siamo tutti amici, parenti di lì, per comodità, però quando la stagione è piena prendo il camper e parto, me ne vado da tutt'altra parte io. Già lo so, già. Ce ne sono posti belli, No, grazie a Dio, in Sardegna, da qualunque parte vai è bello. Poi se non ti piace il mare, abbiamo dei posti nella Barbagia, in montagna, una cosa bellissima, che non conoscevo, diciamo, c'era andato da ragazzino, ma poi riandarci da grande rivedi cose bellissime, ci sono dei posti dove c'è acqua pure, oltre che montagna, bellissima. Bello, Arizzo, Belvita, quelle zone, cavolo. Non lo so, poi c'è tutta la zona selvaggia, cacchio, se ti piace il mare te ne vai nell'Ogliastra, amiche, ci sono tutte quelle calette di puzzi, bellissime, proprio bello. Poi non parliamo tutta la zona di quelli, proprio la prima Barbagia dove c'è Rottelli, Fonni, quella zona lì, ci sono dei puzzi di lì di acqua, su Gologone, non so se sei mai andata a Oliena. È bello lì. Sì, vediamo un po' se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare. Io sto facendo ora e dopo mi guardo la partita. Oggi c'è una bella partita, Milan-Juve. Certo. Non lo segui tu il calcio, Antu? Poco. Frase, Gattifi. Non ho capito. Che squadra tifi? No, vabbè, mi piace un po' il Cagliari giocando. Però a me piace guardarmi le corse. E oggi c'è la Formula 1, dice che la Ferrari è andata bene alla grande, peccato, dice, poteva arrivare anche un po' di più, però dice Leclerc ha fatto una partenza allucinante, è vero? È vero già. Cavolo, ma purtroppo è la macchina che non va, se sarebbe andata un po' di... anzi sta crescendo a piano, va gara a gara, sta crescendo. Se la macchina andasse un po' di più, guai. Purtroppo dice c'ha 6 decimi di ritardo dalla Mercedes e non so quanti decimi dall'altra, come si chiama, la Red Bull. Se avesse macchina, guai, Leclerc è troppo forte. Leclerc gli risponda. Oh, anche Hamilton è forte, niente da dire. Però Leclerc, se avesse macchina, è veramente forte. Per cui l'anno scorso, o 2 anni fa, quando era Vettel, che lui era la riserva di Vettel, che andava più forte di Vettel. Quando era SF90, quello andava forte. Era un missile nel rettilineo. A Monza ha fatto impazzire pure a Hamilton. Ma adesso chi conta è tutta l'elettronica, non c'entra più il pilota. Tu come ti MotoGP, adesso chi conta è l'elettronica, cioè se tu c'hai un bel settaggio di elettronica, coso, vinci la gara, anche se non sei fortissimo. Infatti ogni tanto vedi persone sconosciute, ti dai una moto, ti fai delle regolazioni e vince uno sconosciuto. Mentre ai tempi di Valentino lui sapeva guidare, infatti l'ha detto Fogarty nell'intervista, ha detto Valentino se avesse una moto competitiva vincerebbe ancora. Però c'è sempre la differenza, quello che ha un tanto di più fa sempre la differenza. Sono sempre, vedi, tra Hamilton e Bottas c'è molta differenza, cioè tra Verstappen e quel Perez non ce n'è per nessuno, Verstappen molto su, tra Leclerc e Sainz si nota la differenza, quello là spinge molto più forte nell'acceleratore. E vabbè, ma Sainz è giovane, già non ha tempo di imparare. Eppure quello là è giovane, però quello là si sente al talento, proprio la macchina la tira come un forsennato. E credo che era il collaboratore della Ferrari, infatti ha i denti più forti dei piloti ufficiali. Già lo so, prima è entrato nell'Alfa Romeo e poi è entrato come quel Russell. Dai a lui la Mercedes a vedere come la fa volare. Hamilton, voi di cagato addosso. Vabbè, ma Hamilton già è forte lo stesso. Io all'inizio magari no, ma adesso cacchio, prende Duccio, riesce a vincere e vince, però sa tenere anche la posizione, non è di quelli a sfasciare. Tu ricordi quell'altro Montoya tanti anni fa, che era forte, però era, per dire, lui doveva per forza vinci, e per dire non si accontentava del secondo o del terzo posto. Hamilton c'ha quello di buono, se dice non ce la faccio, ci tiene la posizione e si prende i punti. Infatti i Gran Premi lui li vinceva anche per quello, per dire, due tre anni fa quando aveva Ferrari la competitiva, lui arrivava anche secondo o terzo, però faceva sempre i punti. Altri piloti invece cercavano di vincere, si c'erano fuori strada, sfacciavano la macchina, eccetera. Però non gli hanno fatto fare solo una gara a Russell. Abbiamo visto cose allucinanti, se quello lo metti a fianco di Hamilton si caga addosso, quello spinge sull'acceleratore e basta. Insomma, poi diciamo, quando arrivi a quei livelli più o meno sono tutti bravi, però ti ripeto, conta un bella macchina. C'è quello Giovanardi, quello che c'ha l'Alfa Romeo, c'è quello che ha la macchina, quello è forte lo stesso. Vecchietto, però già sa guidare la macchina. Giovinazzi stai dicendo? Giovinazzi non metterà nulla. Giovinazzi è che tu che curia in coso, in quel coso di DTM tedesco. Giovinazzi volevo dire. Giovinazzi va forte, va molto forte. Quello che corre col coso. E poi c'è anche il figlio di Schumacher correndo. Sì, no, è bravo. È molto più bravo di certi piloti, però si tiene ai limiti della macchina. Si tiene, non è un tipo che spinge. Ma il padre era tutta un'altra cosa. Il padre da subito, come è entrato subito in Formula 1, lui con una macchina che non andava la faceva andare. Vabbè che erano macchine di diversi tempi, Sì, ma prima c'era il pilota che guidava, controllava, adesso è tutto grato, ti chiamano le mappature, ti cambiano il coso, la pressione anche delle gomme, ti chiamano a lascio e vogliono. No, la pressione delle gomme non si può più toccare, perché fa diani un po' di disastri. Sì, già ci sono sistemi, ogni tanto qua ci sono cose, si scoprono cose strane, cacchio di sistemi che noi non conosciamo, vedi, ma come ti fai, questa macchina è dentro di più, di colpo sta correndo più dell'altra, perché magari scoprono un sistema che ti cambia l'assetto in corsa, che magari è tutto fuori legge, però non riescono a individuarlo. La Mercedes chissà quanti ne ha fatto dei trucchi. Vabbè, già lo sappiamo. E comunque il motore Ferrari ha migliorato tantissimo a confronto all'anno scorso. Ma io non capisco, l'SM90 cazzo c'ha una velocità mostruosa in rettilineo, meglio del Mercedes. E poi arrivato il SM1000 e non andava più bene, ma sicuramente lì ci sono qualcosa. Ma la Ferrari a livello di motore forse anche meglio della Mercedes, però tutto il resto, l'aerodinamica, l'equilibrio tra motore e assetto, la Mercedes è superiore. Magari c'ha meno cavalli la Mercedes, però li sfrutta meglio, perché in curva, cacchio, tutto quello che guadagna, che perde nei rettilini, lo guadagna in curva. L'hai visto come arriva più forte in curva? No, come Gussino, addirittura il migliore, molti dicono che dovrebbe essere il motore Honda il migliore addirittura, molti dicono che secondo me Mercedes è il migliore, secondo me, forse o secondo o il terzo Ferrari. Ma siamo proprio tutti vicini, magari poi in un Gran Premio rende di più quel motore lì dove ci sono meno curve, c'entra più la velocità nei rettilinei e magari guadagni qua. Poi ci sono quelli dove ci sono i percorsi tortuosi, dove c'entra l'accelerazione anziché l'erogazione della potenza. Ci sono tanti circuiti per cui dicono qua va meglio quella, poi alla fine poi molte volte dicono qua il circuito ha fatto apposta per la Ferrari, al primo giro si esce pura. Però la differenza di motore secondo me è migliore, potrebbe essere Mercedes il miglior motore, troppa differenza di velocità c'è. Ah, non lo so, questo bisogna vederlo, perché noi lo sappiamo per sentito dire. Sicuramente il motore Ferrari è ottimo, però tutto il resto bisogna avere il telaio e cosa, perché qua chi fa la differenza è il telaio, per non farti consumare le gomme, perché molte volte magari nei primi giri la Ferrari va bene, dopo 20 giri inizia a perdere il colpo, si è notato. Per cui direi è questione anche di telaio, che ti consuma troppo le gomme, la Mercedes magari ti deteriora meno le gomme e riesce a tenere più il giro, più veloce. Vabbè, altro io vado a vedermi la partita, dai, ti saluto, dai, ci sentiamo magari domani, se coincide magari ci sentiamo un po' prima, dai. Buon tutto e buona cena se devi farla. Ok, ciao ciao, ci sentiamo. Ciao Robè, ciao. Antu! Ehi, dimmi! Ma ti stavi addormentando adesso salutando? No, perché? Sei un po' paccato. Vabbè, può succedere. Ammetti. Ehi, sono dovuto uscire un attimino fuori che c'era gente, stavo parlando per ticcare, c'era Roberto avvocato. E niente, vabbè. Ciao Robè, buona visione, se ci sei ancora. Ciao Roberto, l'ho lasciato. Andabex. Aspetta un attimino, Anto. La radio non va in saturazione, vero? No, è cattivo. Oggi ne approfitto, Ne approfitto a farlo andare questa roba qua, sennò entro settimana ho la possibilità. Non so, il problema è sempre ghiaccio, ringraziamo che stiamo lavorando, quindi non è che non c'è tempo per fare la radio, però almeno sabato e domenica. Uno se si vuole fare una chiacchierata. Si è un po' così, la sera quando rientro è già tardi, quindi magari non trovo nessuno, capite, non perché non facendo neanche. Chiappa, se vuoi mangiare così, bisogna travagliare. No, ma io mangio perché mi piace mangiare, non perché... Chiappa, purtroppo. No, è una cosa che si dice, se vuoi... Se i soldi servono, se lavori ce li hai, purtroppo siamo tutti nella stessa barca. No, è proprio così, perché chi non lavora fa domanda e degli aiuti sociali, quindi non è che c'è lo stesso soldi. Io preferisco lavorare, perché a posto di biglia nel contento ne biglio 1000 e sto più bene. Sono d'accordo con te, per carità, però c'è quello che magari non mi esprimo in questo argomento, è una cosa che non mi va giù per alcuni sensi, per alcune cose, perché chi prende l'aiuto il comune stesso lo deve impegnare. Avanti Puglia! Qui la Sassari, c'è anche l'altro mio amico, c'è avanti, sempre da Sassari, ti passo a Tino. Ho sentito provincia di Bari, se non sbaglio, non so se mi ascolti, 7351, dai, operatore Tango India November Oscar, Tino, ok, da qua, dalla città di Sassari sempre, avanti l'amico di Bari. Capo, l'amico di Bari, avanti. Io non lo so. Mi sa che è sparita. L'ho sentito per un pochino e poi se n'è andato. Anto, quello stai usando, il grande? Sì. Guarda il segnale, a vedere un pochino. Quanto è adesso? 1.30 radio 5. Bene, allora sta andando, vai. ce lo poteva immaginare, ah, dopo tanti anni che era rinchiuso nell'armoire, come si suol dire, ma adesso si sta sgranchendo le gambe. Già funziona comunque. No, ma quelli funzionano sempre. Sì, dai, diciamo che non c'è niente di particolare, che la rottura delle scatole, che insomma dovete accendere un po' prima, un quarto d'ora, 20 minuti prima, poi finché trova il suo punto di accordo, insomma, va bene. Va benissimo, va, caspita. Io lo sento in sottofondo, qualcuno lo sta chiamando, ma questo radio non è che abbiamo avuto la ricezione. Sì, lo sento anche avanti. Vabbè. Io scendo giù a mangiarmi qualcosa, ma ci sentiamo, ok? Sì, niente, dai, tanto che io mi faccio qualcosa cosa al computer, poi anche io adesso faccio la radio accesa giusto per così, per compagnia, ma niente di che. Ciao Anto, ciao, buona carica, buon tutto, buon inizio settimana, buon lavoro, tutto quello che decidi. Ciao. Ok, ciao a tutti, ci sentiamo. Scendo giù a mangiarmi qualcosa. Via, certo, ciao. Hola. Ehi, gare. Vabbè, al mare oggi? A passeggio l'altro. Hai fatto bene. Insomma, sono andato in campagna e poi sono andato a fare la passeggiata a Porto Torres. E poi a casa. Hai fatto benissimo, Luma. Ma sai che c'è caldo? Cazzo, cagare tu, eh. Praticamente con il braccio fuori dal finestrino ci hanno dato un braccio, l'altro è bianco. Anche io ti sei cuta a moglio. No, perché c'era da farmi un bagno. Io già ci ho fatto. Non hai fatto il bagno? Ehi, appena l'erba fredda. Beh, ancora è fredda. Ciao. Tutto sarizzo mi sono uscito. Mica ne vuoi uscire bambù. Scappa, tende il buco, la furotta, la fai a mezzo. Io sto rifando il computer. Sono di Marina. Di Marina? Di chi è il suo computer di Marina? È lo zio di Marina. Piano. Cosa fai? Che duro. Qualche canale vicino. Ah, te ne dici uno, c'ho lo squatch. Capa. No, ma non è roba di qua. Se no attacco che do cosa, vede. Gappa. E dimmelo. Aiuto, andiamo bene, andiamo. Gappa. Noi già ce la siamo passata bene oggi. E via. E da mandare di chi va la rotonda. Fatto il bagno, poi quello e quell'altro. Poi siamo venuti a casa e poi siamo andati a casa un altro parente. Tutta lì in giro. Mari non è fatto male. Come? Ha giurito, Mari non è fatto male. No, ho fatto male no. Invece di stare lampaddi. E si è mandato in giro questa volta. Hai fatto bene anche tu. Hai fatto bene. Allora, devo rinominare. Vado ai ridicci, Buccarotti. Quando passo li vengo sempre lampaddi in un bar. Ma come ci fanno nel bar, boh? A me mi piace stare in giro. Di là, Eddie. Che sta bene, uno va 10 minuti e se ne va, ghici, tu andi, torri e sto sempre qua, bocca asciutta manica. Mappa carità. Vi sono tanti cosi belli, vi sono, cioè, me so che non che sassare di chi, ma va. Cosa ci vuoi fare tanto, purtroppo? Ma sai, a me sta in chiwi. Chi prende una cosa e con degli amici e basta, e si innanda. Ma come fa niente, da mangiare la sera si sta in chiwi. E a chi non vuole andare di vanto? Sì, ma sono di una lampada, so. Lo so. Però siamo andati a mangiare un gelato a Porto Torres. E poi... punta, vedi, uno va, la punta un d'ora, si mangia un gelato, si mangia e poi, cioè, si fa un giro lì e cosa. Cazzo, ma l'incluido sta venendo a rubare, sempre bevendo, a pulla in mano. Ah, mini bici nel nato. Sono passati lì a Produttore, vicino allo Scoglio Lungo. Cazzo, me ne è poco, io me ne è poco un po' di libera in terra, peroncini. E sino alla rotonda. C'è il coso lì alla rotonda, quello del carro qua. No, ah, pure di birra che sarei comparato. Non so che c'è il carro banditore. È poco travaglia. Io non so che la bomba. Sono stanco, Mi ha detto una volta, non so, con Gavera, normalmente un Gavera, forse, aspetta, quello che è un personaggio importante, aspetta come ti si chiama, DJ Marchi, no, cacchè d'uno così, vera al mondo, vera, in Kiwi. Dite che ce l'hai fatto un culo, babbo figliolo, che la metà è fatta, più di 400 banini. Cazzo! Cioè, normalmente un carina che c'è un personaggio che verrà in Kiwi, ma c'è pompe di soldi, mi. E dopo un magazzino va, ma sa che fare a alza anche a casa sua, e come se già pigliava il materiale. Non è che abita tanto lontano, no? Abita a Rocca e Paccata, andrà a fare, ci dicevi, pane, roba così. Poi c'è il furgone. Ci hanno fatto un culo tutta la notte. Beh, è segreto. Vabbè. Su via. Allora, mi sto dando un dispositivo, un anno antivirus. Questo esce a vedere, 1, 2, 3, addirittura 10 PC. Certo. Addirittura. Questo Kaspersky. Kaspersky. Sì. 10 computer. Guardo. Chiappa. Come Torellina fa soldi, Se riapre la discoteca, già travagliava. Se riapre la discoteca, cazzo, che ci fate? È una banca, mi. Io lo so. Lavora un bel. E mi conto un peluccio, 3 euro. Arrivati, no. E anche chi tu, ma sei tu, mi. Chi su che vuoi, vedi che dà. La pizzeria. Io lo so. Vabbè, lì ormai sapete, non va in italiano questa cosa, tre pezzi, cercando l'antivirus, come si dice, mi sa che non è italiano, anche lì in via Paschi lavorava un casino. Quella fortuna non gli è mai mancata di travagliare. Si va della stagione in Chiva, Platamona, e sta di verme. A Puglia, lo so. Già lo saccio. Allora, un 3PC, no. E dopo di Candy, sto cercando... Forse lo qua italiano, vediamo. Active. Forse ne abbiamo curito italiano. Cercano un venditore italiano. Questo è. Cosa che stai a fare? Ma fa la qua vite. E se avessi riuscito a far matta di formaggio a 10 euro. Formaggio saldo. Quanto? A 10 euro dice. Ehi, bisogna essere buono. No, non lo so di dopo. E già da Rugurone che è buono. Già. Ma dov'è il gruppo? No, dove vendono la roba. Non so se si chiama gruppo. Sedilo. Ho capito. E no, un gaggio. Chiappo. Mamma mia. Ma già messo tutto tanto un cernaio. Ma che cazzo me? E ti credi? Chiappo. E poi stava tirando aria calda oggi. Lo so, domani ha messo un grado in meno, Domani fa caldo. C'ho il braccio bruciato. Non credo, già. Ma poi non era abituato. No, io mi brucio subito. Subito mi brucio. Se fa maglietta, Campagna sì, ma come l'ho messa perché c'erano molti insetti. Mamma mia. Una cacca da andare al fresco, gatto. Che ti di? Se fa bel tempo. Beh, certo. E poi cacca zona gialla, qualche notte me ne scendo giù. Fai bene, tanto, io non ti dimmi cavando di lì. Allora, ma scendo giù a Pattamona, c'è abbiglia e luce. Organizzare qualcosa, che cosa? Ehi, qualche pescata, che cosa abbassa in mare. Io non ne compro nulla. Ma di cosa non ne compri nulla? Di becca. Iba, via. E tu la serva? Certo, ci andavo a pescare anni fa. Ci andavo per come? È bello, devo organizzare qualche notte. Ciao, vabbè, adesso ancora no. E pure qualche notte, tu, se c'è coprifuoco. Ma è un casino adesso. Più là, quando ci liberano, organizziamo qualche bella pescata. Giusto per passarci la notte e stare tranquilli. Chiappa gappa. Sistemando il computer, giurando. Se vedi che non si può stare a buttare la mamma, aspetta. Chiappa. Sto scendendo giù che mi tolgo la roba da lavoro dallo tenito io. Luci, sei ancora? Sì, tanto sono qua, sono qua. Vabbè, accolto là sul computer. Attendi, troppa pubblicità, apriva la pagina, si apriva la pubblicità. E allora lo sto resettando. L'abbiamo sistemato io anni fa. Attenti. Un gioco bomba di virus. Fate per quello. Caffa. Beh, se ci butracco molto, gatto. Vi faccio un bel bisolino, vi voto. Ciao, buonanotte, lui, dai. Mi ci corico direttamente. Cazzo, faccio più, no. Ehi, ciao, Anto, ti lascio arrivato alla forna. E ci sentiamo, ciao, buonanotte, a domani. Ciao, ciao, buonanotte. Gatto, mi tengo che mutande, canotte, Idem. Cappa, sei stato troppo bello. Mi raccomando, la braghetta, salati. E siamo noi due, siamo, cosa? La già va bene, dai. Cappa, non è che... Va bene. Cappa, la ducca da mamma, la ducca da là, la ducca da porto. Andiamo. Tu sei giovane, ormai sei poveccio. Io non sei vecchio. Se posso giocare, sono rimanente alla posso buonire, boh. Quando mai? Ormai l'ho dato. Te quando mai non la fai? Sono vecchio, non ce la faccio più, no. Non mi vergogno, mi curico c'è anche non mi interessa tanto. Siamo in due, non c'è un altro nessuno. Mi la fotti, buono la bicchiere di lavoro a vostro sciato. Anche io la Maria sono mutante. C'è caldo. Anche in questi giorni, capito? C'è vicini, poi c'è caldo, va bene. Va bene, va bene. Mi cade a fare, infatti pure la, come ti chiama, la ghiga bronzata. Non so, pure noi qua, cioè ci sta bene qua. Ma è diverso quando dormi, cioè quando sei solo in due in casa. Il problema è quando vengono altri bassoni, mamma mia, te buoni, rubigiamma, mamma mia. Certo. Adesso per esempio se non c'è nessuno io oggi nel mutante, capito? Poi se ci sono i figli, no, patroncino. È normale. Ci mancherebbe. Tu ci quando ero la tirozzi, mamma mia. Adesso mi vado, fin troppo. Qua non mi sento più libero, mi sento. Se non lo volevo attivare, anche io mi sento più libero. Ma comunque già va bene, dai. Cappa, è tutta un'altra cosa, quando sei libero. Buonanotte, dai, adesso mi gocco, cazzo, da un po' di sonno. Ciao, ciao. Ciao, buon ragione.